penso alla gente che amo. Penso di non riuscire più ad amare nessuno. Mi rifugio nel mio buio, scrivo nel freddo di luglio. Ascolto il tuo consiglio ma voglio una tregua. Vuoi parlarmi? Prendi una sedia. Mi vuoi dissare? Fammi una sega. Come si vive? Chi te lo spiega? Voglio il cielo e la terra, vado contro perché qua è storto. Ma niente di nuovo, lo vedo dal tuo volto. Vedo tutto storto, vedo tutto stronzo. Arrivo sempre al sodo, tu non arrivi proprio. Mi dicono scendi, il mondo va addormenta. Cerco la pozione per tenervi svegli. Qua l'unica cosa che sento è spendi. Non vinci ma combatti solo finché non t'arrendi. Amo quei momenti dove si sta bene. Amo quei momenti tipo ubriachi alle cene. Amo quei momenti dove si sta insieme. Amo quei momenti dove tutto ci appartiene. Amo quei momenti dove ci sei tu. Amo quei momenti dove non ci sei più. Amo quei momenti dove mi sento su. Amo quei momenti dove mi sento giù. Solita giornata di monotonia sfiorata. Se non fosse per un po' di fantasia che rimane in me stesso, non certo nella mia via. Nemmeno il cielo aperto toglie la malinconia. Cadono le foglie come ogni anno, del resto la mia mente alle doglie partorisce un altro testo. Ma se tutto ha un suo ordine, faccio domande esistenziali alle quali non so rispondere. Penso quindi sono ok Cartesio, ci sono. Ma non mi spiego certa gente che non pensa proprio. Chi pensa solo a se stesso merita di stare solo. In questo mondo resta un inutile accessorio, un piacere illusorio, ciò che poi ci intristisce. Bisogna armarsi, fare attenzione ai passi falsi. Di cretini ne vedo ogni giorno a sfilze. L'importante è sempre differenziarsi. Thank you.